Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che viene dall'India. Si chiama Jugad Innovation. Pensa frugale, sii flessibile, genera una crescita dirompente. Un libro edito da Rubettino, scritto da tre ricercatori indiani, alcuni di questi lavorano negli Stati Uniti, e curato nella sua edizione italiana da Giovanni Lo Storto e Lorenzo Previ. Giovanni Lo Storto, direttore generale dell'Università Luis Guido Carli, è qui con noi questa sera. Buonasera, dottor Lo Storto. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, Jugad Innovation, pensa frugale, sii flessibile, genera una crescita dirompente. Direi è quello che ci vuole in questo momento di difficoltà per l'industria, soprattutto per l'industria italiana. Com'è nata l'idea di curare, tradurre e presentare in Italia questo libro? Ma è nata da una chiacchierata che ho fatto con Leonardo Previ, che è l'altro curatore, che tornava da un viaggio in India e mi raccontava di questo fervore, sebbene in un contesto di grande difficoltà, di grande povertà, che aveva trovato a Bangalore o comunque nel suo viaggio. E mi raccontava anche del fatto che c'era un libro che stava vendendo moltissime copie in giro nel mondo sul tema della Jugad e che raccontava proprio come si potesse creare sviluppo anche in un contesto in cui non ci sono risorse. Allora abbiamo approfondito l'idea del libro e abbiamo pensato che probabilmente, come anche nel libro in più parte scritto, anche in contesti non di economie emergenti ma di economie mature, o forse a maggior ragione in contesti di economie mature, questo messaggio può essere molto utile. Ecco, un messaggio appunto di semplicità, diciamo di innovazione che parte dal basso, in una realtà italiana fatta, come ricordate per esempio nella prefazione, da piccole e medie imprese, e forse la Jugad in qualche modo era già applicata senza saperlo. Beh sì, questo è un primo elemento. La Jugad è in più luoghi già applicata senza saperlo. Basti pensare che il libro, che è un libro che parla di quanto si può costruire in un contesto di scarsità, è un libro molto ricco, perché è un libro in cui in meno di 300 pagine ci sono 104 casi aziendali. Metà di questi casi aziendali sono raccontati in aziende in paesi in via di sviluppo, l'altra metà sono di aziende in paesi ad economia occidentale, matura, per cui voglio dire ci sono molte aziende importanti, note, che hanno applicato soluzioni trovando grande successo che noi abbiamo descritto, o che gli autori meglio hanno descritto, come soluzioni Jugad. In Italia c'è tutto il nostro mondo delle piccole e medie imprese, che è poi quello che forse meglio degli altri, benché soffrendo più degli altri, ha in qualche misura continuato a combattere contro questa crisi devastante, che molte volte applicano soluzioni Jugad, che sono soluzioni semplici, cioè soluzioni in cui la semplicità è un valore, soluzioni in cui la possibilità di trovare una, come dire, opportunità in una avversità è un valore, soluzioni in cui la inclusione del margine, dove per margine si intende chi è nelle periferie, come ci direbbe con molta più chiarezza lo stesso Papa Francesco, è un valore. Ecco, l'unione di questi valori può portare alla creazione di valore proprio sul mercato di profitto per l'azienda. Ecco, un'innovazione appunto che parte dal basso, possiamo dire un'innovazione povera, che però può conseguire anche grandi risultati se applicata appunto a tecnologie come quelle attuali molto presenti. Qui si parla appunto della vostra prefazione dell'arte di arrangiarsi, di tecniche esistenziali che hanno in comune la passione per il più concreto imparare. In queste tecniche la pratica viene sempre prima della teoria e le mani pensano sempre meglio del cervello. Si tratta di tecniche orientate al risultato più che al processo, in ciascuna delle quali tuttavia si pone implicitamente in atto un apprendimento sistematico. E ancora, i maestri di queste tecniche spesso non ne sono consapevoli, ma essi sono prima di tutto maestri dell'arte di imparare. Grazie alle difficoltà oggettive, alla scarsità dei beni materiali, alla della irreperibilità dei pezzi di ricambio. Questi maestri dell'imprevisto hanno imparato a imparare. Ecco, in questo c'è forse anche una lezione. Lei è direttore generale di una importante università come la LUISS. Ecco, l'università deve anche saper rispondere a queste nuove necessità di delle imprese di fare un'innovazione diversa dall'innovazione ipertecnologica con cui viene spesso, a cui viene spesso fatto riferimento, dottor Lo Storto. Guardi, è esattamente così, ma può essere anche, mi perdoni il gioco di parole, più che così. Voglio essere più chiaro. Da una parte certamente jugad è un termine indie che indica in qualche misura anche l'arte di arrangiarsi, cioè la capacità di trovare soluzioni in una modalità che non è strettamente collegata all'avere a disposizione molte risorse o molte risorse economiche. Cioè, per dirla in maniera più semplice, il bisogno aguzza l'ingegno, quindi laddove c'è un bisogno fisico, come ci hanno insegnato i nostri papà e i nostri nonni, e come la storia economica del nostro paese dimostra, attraverso storie bellissime di imprenditori e di imprese che per affrontare proprio le difficoltà sono diventati poi dei grandi casi di successo. Ma detto questo, poi in maniera più puntuale, noi abbiamo come anche attori della formazione una enorme responsabilità in questo. Tutto il tema dell'education in Italia, che in qualche misura sta finalmente assumendo un ruolo centrale anche dalle riflessioni che il governo sembrerebbe stia per fare sul tema della scuola innanzitutto e poi dell'università, ha una forte, enorme responsabilità, ed è una responsabilità fisica, cioè nella convinzione precisa e puntuale finalmente di poter avvicinare il lavoro fisico, il lavoro concreto al percorso formativo. Dobbiamo smetterla di pensare che da una parte c'è lo studio, la formazione, e dall'altra c'è il lavoro. Se ci convinciamo finalmente che lavoro e studio sono cambievolmente utili l'uno all'altro, possiamo concretamente dare ulteriori elementi di opportunità di crescita ai nostri ragazzi. Le faccio un esempio concreto: la nostra università quest'anno ha messo in condizione di fare in modo che il percorso curriculare comprendesse anche lavori fisici. I nostri studenti sono andati a lavorare, a fare corsi di falegnameria, di scultura del legno, di oreficeria, ma anche a lavorare nei carceri con le donne carcerate, nei beni confiscati alla mafia, alzandosi alle 5 del mattino e andando nei campi a raccogliere i pomodori o a togliere i sassi per permettere che poi possano essere erati. Cioè, dare ai ragazzi la opportunità di capire che attraverso l'utilizzo delle mani può passare un percorso di formazione importante che gli consenta poi di diventare manager, professionisti più avveduti, con più strumenti, con più frecce al loro arco. Ecco, questo vuol dire appunto concepire la persona nella sua integralità, nella sua capacità di avere delle emozioni, delle sensazioni, di avere un cuore. Segui il tuo cuore è uno dei principi che voi manifestate, appunto, che voi spiegate, anzi che spiega questo libro che voi avete ripreso. Un altro principio è quello di pensare e agire con flessibilità. Sì, c'è quella famosa frase di Einstein: non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che ha generato. Forse bisogna abituare i giovani, più che a dare delle risposte giuste, a farsi le domande giuste, dottor Lo Storto. Non c'è dubbio, non solo Einstein, ma anche Keynes ci ha insegnato che bisogna prima, tagliare i rami precedenti e quelli vecchi per pensare che possano svilupparsi rami nuovi e con nuovi frutti. Bisogna dare agli studenti, ai ragazzi che arrivano con un bagaglio di capacità nuove. Noi stessi abbiamo, per insegnare ai ragazzi l'arte di potersi fare domande ulteriori o domande nuove, dobbiamo a nostra volta capire che questi ragazzi arrivano con un set di strumenti diverso da quello di intere generazioni precedenti. Un ragazzo che oramai arriva con una confidenza estrema con gli strumenti digitali, perché già da quando aveva 2 o 3 anni era in grado, è oramai in grado di lavorare con uno smartphone o con un tablet, è evidente che arriva con una quantità di capacità e di propensioni naturali ad immaginare percorsi di soluzione o percorsi di creatività molto differenti da quelli che noi in maniera induttiva, noi quarantenni, noi cinquantenni, possiamo pensare siano possibili, per non parlare di noi sessantenni o di noi settantenni. Allora dobbiamo avere l'umiltà di capire che questa generazione che sta arrivando, benché fragile forse perché in qualche misura è nata e cresciuta all'interno di un contesto forte di crisi, pensate che i ragazzi che arrivano oggi all'università a 18 anni non hanno mai conosciuto intorno a loro in questo paese un mondo che non sia come dire, dominato dalla parola crisi, perché avevano 10 anni, 11 certo. anni quando tutti abbiamo parlato di crisi, abbiamo vissuto all'interno della crisi. Ecco, questi ragazzi arrivano fragili per questo motivo, ma anche forti, fortissimi, di capacità nuove che noi forse nemmeno potevamo immaginare. Ecco, bisogna mettersi a loro disposizione perché possano costruire su queste capacità nuove. Bisogna far sì che quelli che sono diversamente giovani possano aiutare i giovani a farsi strada e a risolvere un po' i problemi di questa società, dando appunto l'apporto di tutti, partendo appunto dal basso, come dice questa Jugad Innovation, che è appunto il motivo di fondo di questo libro, che è certamente interessante, parla della realtà come quella indiana, con tantissime però motivi per essere una realtà vicina a quella italiana per tanti elementi, ma in cui poi la persona, i giovani e anche i diversamente giovani sono certamente una componente essenziale della società. Io ringrazio Giovanni Lo Storto, direttore della LUIS, dell'Università LUIS, e curatore di questo libro, lo ricordo, Jugad Innovation, pensa frugale, sii flessibile, genera una crescita dirompente, edito da Rubettino, sono 271 pagine per 18 euro. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.